Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. Quella di completare il grande progetto di quella che Del Rio chiama la Napoli-Palermo per non chiamare Ponte sullo Stretto, ma che è di fatto il collegamento tra Napoli e Palermo in un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, come è sacrosanto, 100.000 posti di lavoro, ma che sia utile. Senta, è vera la notizia che adesso vuole il Ponte sullo Stretto? Signori miei, sì. Vi dico solo che potremmo avere... 100.000 posti di lavoro in più. Sì, ma dove trova i soldi? Dove trova i soldi? Eh? Vabbè, forse ti è sfuggito. Cosa? Che mi sono appena avanzati i quattrini delle Olimpiadi. Ah. E se non le basta per votare sì, sì, senta questa, facciamo le Olimpiadi sul ponte sullo stretto. Ma no. Non ci faremo intimidire. No. Su pilastri di pilo e tiranti di pilo costruiremo un ponte di pilo. Che bello solito. Si sa che è bello. Con 8 corsie di pilo e una corsia di peluche per i miei amici. Vabbè, carreggiate di pilo, panchine di pilo per ammirare un mare di pilo. Distributori e caselli di pilo. Una scia luminosa di pilo e prosperità che unirà i continenti. Votatemi e sempremente e qualunquamente ci saranno 3 chilometri di pilo. Eccolo qui, il ponte, secondo Cettola Qualunque. Beh, non male, non male questo ponte. Ragazzi, il ponte, eccolo qua, mi arriva subito. Oggi ha stabilito un ascoltatore, Tony, che oggi alle 6:29 sono un astioso antirenziano. Ora laminerai col ponte sullo stretto, ma Renzi ha parlato di Napoli-Palermo. Sì, infatti, uno arriva a Reggio Calabria e poi, hop, un tuffo, un saltone gigante. Anzi, 100.000 posti di lavoro, forse secondo Tony si riferiva a persone che uniscono le braccia, si mettono lì in 100.000 e tu ci passi sopra, hop, e vai dall'altra parte, sei in Sicilia. Sono un astioso antirenziano. Tony, ti do il cellulare privatamente di quell'ascoltatore che 2 giorni fa mi ha scritto: sei un renziano di merda. Se gentilmente vi chiamate, vi mettete d'accordo, poi fate un sondaggio, votate sì, votate no, oppure votate per palette, alzate, e poi vi do il mio cellulare, mi chiamate e stabilite esattamente con chi sto, così me lo dite e io sono un po' più sereno. Milan, io lo so che tu sei grillino dentro, lo so che sei grillino dentro, dillo! Ecco, vedi, sono a malapena ormai milanista, ecco. Sono più legato ormai alla Pro Sesto, che è prima in classifica in Serie D, prima in classifica, lo dico al mio amico Marco Agnoletti, che segue con me, portavoce di Nardella, ex portavoce di Renzi, amico mio, questo sì lo posso dire, grande amico. caro Marco, guarda la classifica che ti mando peraltro tutte le volte in foto. La Pro Sesto è prima in classifica. Te la mando finché sarà prima, Non so fino a quando, però te la mando nel frattempo. Sono le 6:32 minuti, signori. Questa è 24 mattino. Siamo qui con Peter Bescapè, l'alpino, anello al dito, in regia, e il nostro Lorenzo Nespoli in redazione. E voglio subito convocare intanto il super mega iper uranico DIR, il nostro Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Diventa il mercoledì del direttore, un programma di approfondimento di Luca Dini, con l'insolita presenza di Paola Saluzzi e un altro tizio di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Ovvio, questa sì. Basta con la solita radio. E poi noi c'è la Saluzzi, la vogliamo vivere più social. Ecco che con la nuova stagione inizia A Casa di Paola. Eh sì, andremo tutti quanti a casa di Paola e staremo tutti insieme a lei tutto il giorno. Tutto il giorno. È tutto pronto. Ehi, finichino. Non sbirciare. Mentre gioca con il gattino. Mentre parla con due tizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. E alla sera possiamo rimboccarle le copertine. Buonanotte, Paolina. Con la nuova stagione cambia il tuo modo di vivere la tua rossa preferita. A casa di Paola. Tutto voglio il giorno, conoscere tutto quest'uomo. Il sì. Per sempre. Un fuori classe. Luca Dini e Paola Saluzzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, devo dire che effettivamente la sigla, l'autore della sigla è lo stesso. Non c'è paragone tra le due sigle. Ha messo un po' più di passione, un po' più di, come dire, ma non dipende da lui. Infatti, un po' più di amore nella sigla verso Paola Saluzzi. Quanto siete belli. Comunque, dimmi Luca. Non sei antirenziano. Solo astioso. Neanche astioso, solo astioso. No, sei solo astioso. Solo astioso. So, io infatti sono astioso con tutti e con tutto, questo sì. Questo io sì. Volevo aprire dicendo Milan, fascista. Fascista, esatto, va bene. Così c'era tutto, no? C'è tutto. Abbiamo fatto il giro. Allora, come state? Tutto bene? Siete contenti che c'è questo ponte che arriva? Ragazzi, signori, intanto apriamo il Parlamento, perché qua Renzi... Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete. Ottobre 2012, sul Mona, Renzi, sindaco di Firenze allora, dichiara: continuano a parlare dello stretto di Messina, ma ritengo che 8 miliardi a disposizione per quest'opera dovrebbero essere dirottati sulla scuola pubblica, altro che ponte. Vabbè, caro Luca, non è che... Allora, prima regola dei politici, no, di tutti, tutti, la coerenza non è che sia... No, se si prendono le dichiarazioni negli anni, cambiano continuamente. No? Però, che dobbiamo dire? Dobbiamo attaccarci a questo ponte sullo stretto adesso? Ma non lo so, guarda, io penso sempre che in queste cose bisognerebbe giudicare il come prima che il cosa. Come sempre mi preoccupa il come. Preoccupa il come perché di ponti così ce ne sono tanti nel mondo, non è che siano disastri o sinonimo di catastrofe. Però sì. È il come. È il come. Cioè, quindi io sono... No, ma l'idea facciamo 100.000 posti di lavoro, e chi direbbe di no di fronte a 100.000 posti di lavoro? Però attenzione, cioè, perché questo ponte è un contenzioso che va avanti da non so quanto. A parte che lo Stato, come racconta oggi Sergio Rizzo sul Corriere, rischia di pagare già una salassata per una diatriba, perché si fa, non si fa, ovviamente le imprese che lo dovevano fare adesso vogliono, come dire, delle garanzie. Rischiamo di pagare una marea di soldi per un ponte che manco è iniziato, cioè non abbiamo neanche messo la prima pietra. Non lo so, mi sembra però in questo momento una dichiarazione, almeno leggere anche tutti i giornali, abbastanza, insomma, scopo elettorale, un po' buttare lì questa idea che sui giornali oggi non viene dipinta in maniera positiva. Però, il fatto che non venga dipinta in maniera positiva fa pensare che se è una manovra elettorale può essere anche un autogol, perché non lo so fino a che punto porti. Ma no, infatti, è vero che ha parlato della Napoli-Palermo, so. Tu, Paola Saluzzi, ne parlerai oggi allora, alle 10? Oppure... Noi oggi apriamo Dentro i fatti con le tue domande alle 10, noi siamo subito sul ponte che ancora non c'è. No, voi l'avete già fatto. Esatto, facciamo da ponte tra la notizia e quindi tutte le polemiche che ovviamente questo comporta, e se volete anche la domanda perché sia così difficile nel nostro paese costruire qualcosa, no? Perché bisogna considerare inequivocabilmente anche questo, cioè tutto, ed è chiaro che qualsiasi cosa corrisponda a possibili manovre elettorali va analizzata ancora più da vicino, però c'è un dato di fatto, come muovi un dito sbagli. Sì, no? Sì. Sì, e insomma, allora anche questo va. O come cerchi di fare qualcosa, insomma. Così, anche questo va cercato di capire, insomma. Poi non è che noi raddrizziamo da soli le barre dell'ancora, però ne parliamo, giustamente. È chiaro che io non lo so, io ho questa idea di questo ponte che mi sembra un qualcosa che ogni tanto venga buttato lì almeno dai politici, cioè ogni tanto viene utilizzato. Era stato Bettino Craxi a dire si faceva, poi c'è stata Tangentopoli, poi è stato Berlusconi una volta, due volte, poi è andato su Prodi e subito è stato fermato, poi è tornato Berlusconi e rifacciamo il ponte, poi è stato lo stesso Berlusconi, per la verità. Ricorda, nel 2011, come dire, eravamo nel pienone di una crisi che rischiava di travolgerci, a dire ma no, questo ponte non si può più fare, e fu lui proprio al governo a firmare come uno degli ultimi atti il no, e poi con Monti anche ribadito questo no. Ora rispunta questo ponte, non lo so, l'idea, Luca, è che durerà due giorni sui giornali, mi sembra la polemica. Detto questo, il ponte poteva essere già fatto, ci potrebbe essere, ce ne sono altri simili, non è che sia... Non è che parliamo di viaggiare su Marte. No, è chiaro, in Giappone o in Cina lo farebbero in 15 giorni. Ma li hanno fatto. Ecco, esatto, in due mesi. Senza... E ci sono lavori già fatti, tra l'altro. Ecco, noi partiremo anche da questo, si parte poi da questo. Ci sono dei lavori che sono già stati impiantati, vero. Quindi c'è già un costo, no? Esatto. Il che non vuol dire se c'è già un costo andiamo avanti, si costruisce un mostro e finiamo di costruirlo, è capire se sia un mostro o meno. Questo sì. L'altro grande tema che non ci abbandonerà sui giornali fino al 4 dicembre è quello del referendum. Signori, io non lo so, chiedo una tregua ieri. Anch'io. Ti prego, facciamo un appello pubblico, direttore Paola Saluzzi. Facciamo una tregua. Almeno, diciamo, fate la vostra campagna. È giusto, la campagna referendaria. Ma poi io non ho capito la polemica sulla data, nel senso che... No, quella è una polemica ridicola. Cos'è successo di nuovo rispetto all'altro ieri? No, non lo so, il 4 dicembre pare... abbiamo la data. Però pare per qualcuno che... allora, intanto si dovevano consultare tutti per una data. Poi altri hanno detto a dicembre non si è mai votato. E allora che dobbiamo fare? Perché se era il 27 novembre era quasi dicembre, insomma, non andava bene. Sì, no, in Spagna infatti voteranno il 25, probabilmente. Esatto, in Spagna voteranno probabilmente il 25 dicembre. Comunque, c'è la campagna talmente assurda che ieri ho intercettato questo tweet. Lo ha scritto Francesco Nicodemo, che è del Partito Democratico. Oggi celebriamo, ieri, Totti 40, gli anni di Totti, ricordandovi che da quando il capitano ha esordito in Serie A ci sono stati 15 governi per la stabilità, basta un sì! No, ma pure Totti, vi prego! Beh, un uso creativo. Basta, dove finiremo, Luca Di Nico? A cosa assisteremo da qui al 3 dicembre? Dai, facciamo un... Ma lo so, usare basta un sì anche per Trump, Clinton. Esatto. Signor. Esatto. Sì. Esatto. Ecco, lo so, so che Paola quando si nomina Trump... Cioè, a parte che c'era un'ambulanza sotto qualcuno di voi due, non so se era per andare a prendere Nicodemo... Non ero io in ambulanza, sono io semplicemente che ho aperto la finestra e stavano i vigili del fuoco, non erano... Ah, ecco, i vigili del fuoco. I nostri amici, i vigili del fuoco, comunque più o meno la stessa cosa, insomma, qui va a fuoco tutto. Cara Rossa, perché quando si nomina Trump ti... No, invece ieri ho detto una cosa... Anomala rispetto al solito, avendo seguito il dibattito notturno per noi chiaramente, insomma, tra i due, ci sono stati dei momenti in cui lui mi ha fatto, adesso l'azzardo, azzardi, quasi tenerezza, addirittura, perché lei era ferina e felina, sì. Cioè ci sono stati dei momenti in cui Hillary gli ha lanciato delle occhiate, dico solo occhiate, non vengo agli argomenti dello scontro tra i due, le tipiche occhiate della moglie arrabbiata, non è sua moglie, mamma mia, per un attimo ho detto poverino. E poi ti sei resa conto che era Donald Trump e non volevi, e poi ho capito che non è Ronald Reagan, e quindi insomma io pur fiera democratica dico non sei Ronald Reagan, Vabbè, dai, allora te lo faccio sentire. Allora te lo faccio, visto che la grande richiesta di Paola Saluzzi, Donald Trump, pochi secondi, su Hillary Clinton. I said she doesn't have the stamina, and I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. Tre volte stamina, cioè non ha la forza, non è in grado di la mette proprio il coltellino nella piaga dello stato di salute. Si è proprio tuffato nella trappola. Cioè perché sullo stato di salute di Hillary Clinton? Sì. Che... Beh, intanto ha fatto una figuraccia, poi lei gli ha detto, insomma, fai tutto quello che ho fatto io e poi parlami di stamina, quello che gli effetti... L'ha massacrata, si è presa l'applauso più grosso. L'applauso più grosso per questo. Ma infatti, ma voi l'avete vista l'imitazione del Dalai Lama? Il Dalai Lama ha fatto di Donald Trump? No, prego, googlate Dalai Lama Donald Trump. Questa è meravigliosa. Con la mano sinistra imita i capelli. E poi dice quest'uomo che parla con la boccuccia stretta. È una cosa vera e scoppia a ridere. Non ti piace. Guarda che Donald Trump, se diventerà presidente, non ti concederà la prima intervista in esclusiva dopo i 100 giorni, cara. Io penso Paola che Saluzzi. Sopravviverò a questa storia. Giornalisticamente, forse umanamente. Non sopravviveremo ai 100 giorni. Esatto, non sopravviverai ai 100 giorni, forse, ma sopravviverai al fatto che non ti concederà questa esclusiva. Che c'è? Andrò a intervistare Hillary, sarà più interessante. Se avrà la faccia buona, che si leccherà le ferite, ma non lo so. Guardate, che non so poi come andrà a finire questa partita. Mi interessa molto di più della riforma costituzionale. Qui lo dico, Luca, anche a te? Molto di più, anche te. Ecco, adesso diciamo ci che avremo, saremmo stati più felici di uno scontro Bernie Sanders, Donald Trump. Sì, ma però... sarebbe stato impossibile in America, però Sanders sarebbe stato quello sarebbe stato un vecchietto per il quale fare il tifo, proprio eccolo lì, il vecchietto per cui fare il tifo, dai, che ragazzo, cari amici americani, eccolo qua. Avreste potuto mettere come presidente un vecchietto, come dice Paola Saluzzi, un vecchietto ma i vecchietti simpatico. Ammollano, come dicono a Roma. A proposito di Roma, l'hai citata tu? È tutto a posto a Roma? Sono partiti i Vigili del Fuoco. È tutto a posto? Ma vuoi mica candidarti assessore al bilancio, cara Paola Saluzzi? C'hai mica dei nomi? Non ci penso. No. Ma veramente io pensavo di essere te come assessore al bilancio. Sì. Un fatto nuovo. Vuoi proprio far affondare Roma nel giro? Ma assolutamente no, no. E come assessore alla creatività il nostro direttore Luca. Va bene. Che bello. Saranno i tre mesi prima della fine di Roma, ma tre mesi divertentissimi. Insomma, ma col botto. Col botto, finiremo col botto. Allora, siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, Paola Saluzzi, ricorda le 10 su Sky. Tra poco andremo anche all'estero, i nostri ascoltatori che ogni tanto svegliamo all'estero. Oggi andremo chissà dove, ma state con noi perché ci sono ancora tante cose da dire. Tra poco. E vai col traffico! Accerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Ma sta fando mistura con la storia dei Marò, la guerra in Siria. Forse non sarebbe meglio che si dedicasse a qualcos'altro. Eliminare il sindacato che ha rovinato l'Italia, perché il discorso del mandare in pensione la gente a 15 anni, 6 mesi, un giorno, adesso lo stanno pagando i giovani. Se la strategia elettorale di Renzi è passare dagli 80 euro al mese ai 40 una volta all'anno, stiamo in una botte di ferro! Io voto no! Run from cages on Highway 9. caro Luca Dini, che cosa ci ha ispirato questo ritorno col boss? Oggi la copertina di Vanity Fair c'è Bruce Springsteen. Pensa, questo l'ho riconosciuto anch'io quando l'ho visto in copertina. È della nostra età, dai. No, senti, al limite della tua adesso. No, è vero, è vero. Signori, il boss non ha età. E oggi è un ottimo motivo per andare in edicola e comprare tanti di quei Vanity Fair da farne carta da parati nel salotto. Vabbè, 67 carta anni, ma perché hai detto appunto la nostra età 67 anni? Caro Luca, che... Fai tu. Comunque, ma cosa esce la biografia, giusto? Esce l'autobiografia, c'è una bella intervista. L'autobiografia si chiama proprio Born to Run. Questo non lo sapevamo. Questo Peter Bescabel non lo sapeva, ma pam! L'ha centrata. Splendida. Vabbè, vai. Signore, è un uomo divino il boss. Vabbè. È un regalo del cielo. Veramente. Concordo. Facciamolo presidente al posto di Donald Trump. Madonna, immediatamente. Immediatamente. Hanno avuto l'attore perché non l'artista cantante. Ma subito. All'altro, ha espresso un'opinione. Ah sì? Se avete letto. Ha detto che è un idiota. È un idiota? Trump è un idiota? Trump è un idiota. Questo nell'intervista Vanity Fair di Bruce Springsteen. È andato leggero. L'ha toccata piano, come si suol l'ha dire. Ma qui, caro Luca Dini, cara Paola Saluzzi, dobbiamo fare un'incursione con i nostri ascoltatori che ci portano all'estero perché ci ascoltano dall'estero. Good morning, Vietnam! Ebbene sì. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Allora, oggi vogliamo andare dove? Proprio in quell'Austria. Austria, dove c'è... Ecco, dove c'è Andrea intanto? Andrea, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Dove buongiorno. Vivi tu esattamente? Ma io vivo in Tirolo, in un paesino che si chiama Reutte, una piccola valle, un posto delizioso. E niente, uso la vostra trasmissione come sveglia ogni mattina perché siamo perfettamente sincronizzati con l'orario. Mi sembra giusto. Oggi è svegliata. Caro Andrea, ma una curiosità, ma si parla in Austria del fatto che si vota il 4 dicembre per le presidenziali come in Italia con la riforma costituzionale? Perché qui abbiamo fatto una grande polemica. Non me ne frega niente. Questa cosa non è citata, effettivamente. Si parla molto delle elezioni presidenziali, ovviamente, sì. Perché poi c'è stata proprio in questi giorni una critica di un membro della Corte Costituzionale ad Hofer, che sarebbe il candidato della destra, però no, nessuno fa questo riferimento dicendo che strano, ci ha messo il voto come la riforma costituzionale in Italia, e invece no, non se ne ci hanno copiati, nessuno lo dice. Vabbè, a parte le presidenziali, di che si parla in Austria? Che siete qua dietro la porta. Diciamo che siamo molto, siamo dietro la porta, quindi i problemi sono gli stessi. Ecco, se dovessi parlare alla zanzara, direi che ci sono grandi discussioni per l'apertura di una nuova casa di appuntamenti proprio qua in paese. Cruciani sarà contentissimo, prenderà l'indirizzo anche. Passeranno a trovarci. Mentre per il resto, chiaramente stamattina la morte di Shimon Peres, piuttosto che la questione migranti, ma... diciamo, le notizie sono molto simili a quelle che vediamo che noi ci sono anche qua in Italia. Sì, giustamente hai citato appunto la morte di Shimon Peres, che è avvenuta nella notte, diciamo. Intanto Andrea, ti ringraziamo tantissimo, un abbraccio ovviamente a tutta l'Austria. Grazie. A tutta l'Austria con te da Rotted. Conoscevi Paola Saluzzi? Rotted. No, ma ci andrei subito, pensa che il latte è buono che fanno da quelle parti. Ma che ne sai se fanno il latte buono? Sì, è buonissimo. Il famoso latte di Rotted, va così. Bene. Anche lo yogurt. Così. Secondo me non esiste una mucca a Rotted, però. Esatto. Ma perché devi essere così negativo verso le mucche? Ci sono sicuramente. Va bene, diciamo, dai, allora vi faccio sentire. Ci sono anche problemi se sale Offer, ma insomma. Eccola lì. Vi faccio sentire allora la Raggi, perché voglio tornare su Roma, dove non si trova un assessore. Voi ci scherzate, ma insomma, io, se voi volete candidarvi, forse è il momento giusto. Intanto la Raggi. C'è una cosa che si chiama patto per Roma, e come è stato fatto il patto per Milano, io non vedo per quale ragione con il governo non potremmo sottoscrivere un patto per Roma utilizzando proprio quelle economie che derivano dalla mancata candidatura ai giochi olimpici. Vabbè, tra l'altro questo, ma io devo consigliare, se posso consigliare, un corso accelerato di comunicazione al sindaco di Roma. È un po' troppo, come dire, non comunica molta empatia, la mettiamo così. Luca, tu sei d'accordo? Proprio a sentirla parlare, poi magari è bravissima, non lo so, ma sarà bravissima, no? Però non comunica grande simpatia. Ma non lo so, io a me non fa questo effetto, cioè, sì? Diciamo che non è la cosa che mi preoccupa. Ti preoccupa più il no, resto? No, non mi preoccupa, no, mi preoccupa semplicemente, sono d'accordo, patto per Roma, perché no? Cioè, una città fondamentale, io ritengo che il governo debba essere vicino a questa amministrazione. Su questo sì, cioè al di là degli steccati politici, voglio dire, no? Però lì come va, cara Paola, a Roma? Ma si sente la mancanza? Cioè i romani sono preoccupati, non so, manca l'assessore al bilancio, oppure cioè, la città va un po' meglio o no? Adesso... Ma non saprei dirti questo, Alessandro, no, calcolare che Roma vada meglio non credo sia possibile in un tempo così minimo, perché ne vediamo ancora di brutte e di bruttissime intorno. C'è bisogno di un governo della città, quindi deve essere tutto fatto non in maniera accelerata, perché accelerare non serve a nulla, però deve essere bisogna mettere dei nomi, per esempio questo Tutino, l'ultimo bruciato, dice io sono il capro espiatore di tutto, e tra l'altro Tutino oggi viene intervistato da Repubblica, lo vedremo in rassegna stampa, dice ma non dico cosa penso di Fico, anzi di Fico penso ciò che ha detto probabilmente il presidente della campagna Di Luca. Luigino Di Maio il Chierichetto, Fico il Moscio ovviamente e l'emergente Di Battista detto Dibba. Il gallo cedrone, diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia, la sua parte in commedia. Vabbè, vi ringrazio. Paola Saluzzi alle 10 su Sky e Luca Dini, il numero di Vanity Fair con l'esclusiva intervista a Bruce Springsteen. JP Morgan Asset Management vi presenta Aline Mila e lì gestisce una lancia notizia mia 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, le 7:19 minuti, siamo pronti a leggere i giornali con voi, per voi, nella rassegna stampa di 24 mattino, e allora forza, andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo mercoledì 28 settembre siamo ai titoli, molti dedicati al DEF, il documento di economia e finanza, nel DEF disavanzo 2017 al 2%, più 0,4% di spese fuori patto. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Repubblica, DEF, l'Italia alza il deficit al 2,4%, braccio di ferro con Bruxelles. Mentre il Corriere della Sera sui conti si tratta con l'Europa. La Stampa invece punta al ponte sullo stretto, sfida Renzi-Grillo. Il Messaggero, crescita lenta, spinta del governo. Mentre l'unità, flessibilità, 8 miliardi dall'Unione Europea. Il Fatto Quotidiano, l'apertura invece la Boschi in tour in Sud America a spese dello Stato per piazzare il sì. Queste alcune aperture le vedremo altre tra poco, ma voglio subito gettarmi nella lettura degli articoli, tanti oggi da segnalare, a cominciare dalla ultima questione del ponte sullo stretto, rilanciata ieri da Renzi a Milano. Noi ci siamo, se siete nella condizione di portare le carte e sbloccare ciò che è fermo da 10 anni, noi sblocchiamo. Così il premier Matteo Renzi, in visita a Milano, ha aperto nuovamente il ponte sullo stretto, come racconta il Corriere della Sera, pagina 5, con Fausta Chiesa. Renzi rilancia il ponte sullo stretto, crea lavoro, 100.000 posti, le polemiche politiche, Laura Boldrini altre priorità, D'Alema dice un regalo a Silvio Berlusconi per gli 80 anni, i 5 Stelle vanno all'attacco. Vabbè, al di là delle polemiche politiche, Libero fa anche notare a pagina 4, odiava il ponte di Messina, ora Renzi lo promette. Io ho letto prima la dichiarazione proprio di Renzi quando era sindaco di Firenze nel 2012 in tour per le primarie a Sulmona, disse gli 8 miliardi del ponte sullo stretto andrebbero dirottati nelle scuole, priorità diverse. Comunque vi leggo ciò che Sergio Rizzo a pagina 5 sul Corriere della Sera racconta di questo quarto di secolo di giravolte e la causa miliardaria allo Stato. Solo una cosa, scrive Rizzo, ora chi glielo dice a Vincenzo Fortunato che si ricomincia da capo e lui dovrà fare le valigie? Da 3 anni e mezzo l'ex braccio destro di Tremonti fa il liquidatore della società Stretto di Messina, incarico dato da Enrico Letta. Secondo il decreto tutto doveva essere finito entro il 15 aprile 2014, è il 28 settembre 2016 e siamo ancora a carissimo amico. Non è colpa di Fortunato, sia chiaro, ma del pasticcio infernale che è questa storia del ponte, con imprese aggiudicatrici dell'appalto riunite nel consorzio Eurolink guidato da Impregilo, e c'è in ballo una causa per risarcimento danni da cui difficilmente lo Stato potrebbe uscirne indenne. E racconta un po' rapidamente la storia dal 92, quando Craxi promise in campagna elettorale il ponte, ma poi scoppiò Tangentopoli. 2 anni più tardi è il turno di Berlusconi, che però manda in archivio il progetto. Prodi nel 96 lo farebbe pure quel ponte, ma l'Ulivo sono tutti contrari. E arriva il fatidico 2001, legge obiettivo, il ponte riparte. Prima di andarsene Berlusconi firma il contratto con Impregilo, pensando di aver legato le mani al successore, ma sbaglia con Prodi bis. Nel 2006 l'opera va su un binario morto. Poi torna Berlusconi e si rilancia il ponte. La strada sembra definitivamente spianata, ma a ottobre 2011 passa una mozione in Parlamento appoggiata dallo stesso Berlusconi che toglie i soldi al progetto perché impazza la crisi finanziaria. Monti coglie la palla al balzo, mette il general contractor con le spalle al muro per decreto, il contratto decade. È il 1 marzo 2013, il 15 aprile, la Stretto di Messina finisce in liquidazione. Il decreto dovrebbe anche limitare i danni a 300 milioni, più i 350 già spesi, ma parte la causa miliardaria e lo Stato ora rischia di pagare una fortuna per un'opera che non c'è, con la previsione di nuovi posti di lavoro che passa da 40 a 100.000, la giostra si rimette in moto. Così Sergio Rizzo, che conclude: c'è qualcosa di male a essere ottimisti? Comunque il rilancio del ponte un po' ovunque è il tema politico del giorno. A proposito di soldi invece, soldi, meno soldi di quelli citati prima per il ponte, si tratta in questo caso di 2,7 milioni di euro, 2,7 milioni che riportano Antonio Di Pietro nelle prime pagine dei giornali. Di Pietro dovrà, secondo un giudice, risarcire di questa cifra, 2,7 milioni, Occhetto e Giulietto Chiesa, con cui fece nel 2004 i riformisti per l'Ulivo, con Occhetto, Giulietto Chiesa e anche Elio Veltri, un patto elettorale per le europee che poi, secondo Di Pietro, era stato rispettato. Secondo Veltri, Chiesa e Occhetto, no. Di Pietro doveva loro dei soldi. Di Pietro ha sempre definito stalking giudiziario questa vicenda. Ora però il Tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo che impone a Di Pietro di restituire metà dei soldi raccolti allora, 2,7 milioni di euro per l'appunto. Il Corriere con Monica Guerzoni a pagina 21 tenta anche di raggiungere Di Pietro, risponde sua moglie Susanna Mazzoleni dicendo: mi spiace ma non ne vuole parlare, è la solita cosa, ma siamo sicuri che il decreto verrà ritirato anche stavolta perché non ha proprio senso. Eccolo qui il patto con Occhetto e Chiesa: Di Pietro paghi a loro 2,7 milioni di euro. Cifre, ve ne do altre? Per farlo devo prendere la prima pagina della Verità, che oggi esce, a trovarla, con una notizia di prima pagina che fa certamente arrabbiare. Cari pensionati, care pensionate, ascoltate qui, prima pagina della verità. INPS, ecco tutti gli stipendi di chi ci taglia le pensioni. L'ente guidato da Boeri ha oltre 500 dirigenti, 47 di prima fascia, guadagnano in media 184.000 euro l'anno. Peter, un po' il tuo stipendio. No, tu sei di bassa fascia, come i dirigenti di bassa fascia, dai 100 ai 150.000 euro. Questo per 500 e oltre dirigenti, e la verità li mette tutti in pagina 2-3, proprio da inizio, ne cito due, qui c'è la sfiga di avere la lettera A come prima. Massimo Antichi, stipendio, dirigente INPS, 177.422,21. Antonio Antonellis, 179.300. Roberto Bafundi, 179.439,91 euro l'anno. Giuseppe Baldino, 177.912 euro. Sono i dirigenti dell'INPS, si inizia con la A, appunto, di Massimo Antichi, e vengono pubblicati fino alla C di Luciano Contini, ma con la dicitura continua, e cioè immagino nei prossimi giorni ci saranno i nuovi nomi. Gli italiani, scrivono Giacomo Amadore e Claudio Antonelli in prima pagina della verità, gli italiani fanno i conti con i tagli, noi facciamo chiarezza su quanto guadagna chi si appresta fisicamente a prendere in mano le forbici, che siano sforbiciate relative agli anticipi pensionistici o quelle che toccheranno gli assegni di reversibilità, la certezza futura è che l'importo del denaro incassato andrà a scendere. A differenza degli stipendi dei manager dell'istituto guidato da Tito Boeri, che non scendono, la prima linea guadagna in media 184.000 euro, mentre i quasi 500 dirigenti di seconda fascia superano abbondantemente la soglia dei 100.000, la media è 123.000 euro. Se volete tutti i nomi, vabbè, insomma, al di là dei nomi, più che altro l'entità degli stipendi li pubblica la verità, pagina 2-3 con richiamo in prima pagina. Ma eccoci all'articolo, sono due gli articoli che mi fanno pinzare della giornata. Uno è l'apertura del giornale che mi ero tenuto da parte e che cita così: prelievo forzoso sui nostri conti correnti. Guardate che non è una barzelletta, l'ho trovata anche sul Secolo XIX. Francesco Ferrari e Gianluca Paolucci raccontano a pagina 3. I conti correnti diventano più cari per pagare le banche salvate. Per pagare le banche salvate. Eccolo qua. I clienti di Banco Popolare col saldo di fine anno riceveranno una spiacevole sorpresa. Cari ascoltatori, se avete il conto al Banco Popolare, 25 euro, maggiorazione sui costi del proprio conto corrente per recuperare il contributo dell'istituto al Fondo Nazionale di Risoluzione nelle Crisi Bancarie. Si tratta del fondo presso Banca Italia, quello per capire che ha consentito il salvataggio delle quattro banche finite in risoluzione in novembre scorso, Banca Marche, Etruria, Cari Ferrara e Cari Chieti. La comunicazione arrivata alle filiali fa riferimento a una delibera del Comitato Esecutivo di Banco Popolare del 6 settembre scorso e riguarderà tutti i rapporti di conto corrente assimilati dei clienti privati e imprese. In realtà, si spiega dall'Istituto, la maggiorazione riguarderà tra 1 milione e 1,5 milioni di clienti che attualmente hanno conti a canone zero. Ma il caso del Banco Popolare non è isolato, anche dal 1 luglio scorso Unicredit ha ritoccato il canone mensile di alcune tipologie di conto corrente di 2 euro al mese, portando il costo totale rispettivamente a 5, 7, 12 euro in base ai conti. E poi UbiBanca si è mossa in estate con un aumento di 12 euro annui dei costi del conto corrente. Eccoli qua, arriva il prelievo sui conti correnti per finanziare il salvataggio delle banche. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il migliore ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Inter, il cugino vincente di Alessandro Milan. Chi lo sa, esiste un cognome Inter? Vorrei proprio saperlo, qualcuno se si chiama Inter si faccia vivo e si scriva 24 mattino e radio24.it, lo intervisto, lo giuro, se si chiama Inter lo intervisto. Allora, il DEF è stato presentato ieri, è stato siglato dopo riunioni anche molto lunghe, secondo il Fatto Quotidiano, dopo anche qualche screzio sulle cifre, sul deficit del PIL, su quanto fissarlo, questo vuol dire anche quanti debiti fare e questo vuol dire anche che tipo di rapporto avere con l'Europa. Nel DEF 9-10 miliardi di nuova flessibilità, questo è il titolo di pagina 3, leggete tutti i dettagli di Marco Rogare e Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Le misure che in manovra bloccheranno gli aumenti IVA previsti dalle clausole di salvaguardia e punteranno a rilanciare gli investimenti privati e pubblici avranno il compito di far salire il PIL dello 0,4% in più rispetto alla dinamica che si disegnerebbe a legislazione invariata. A motivare la differenza invece dei programmi di governo su quanto è stato fissato il PIL, la ricchezza nazionale crescerà dello 0,8 quest'anno, cioè 4 decimali in meno rispetto all'1,2 previsto ad aprile, mentre per l'anno prossimo il tendenziale indicato dal governo allo 0,6%. E a motivare queste differenze c'è lo stop alle clausole di salvaguardia che avrebbero fatto aumentare l'IVA e oltre a ciò il pacchetto fiscale basato sul rilancio del superammortamento e sugli altri interventi previsti per Industria 4.0 e le piccole e medie imprese. La nota di aggiornamento al DEF fissa al 2% il rapporto fra deficit e PIL per l'anno prossimo contro il 2,4 con cui si chiude il 2016. Ovviamente la partita con l'Europa è ancora aperta, come fa sapere Beda Romano. Bruxelles frena, trattativa aperta, la Commissione europea analizzerà nei prossimi giorni questo documento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, dati che saranno valutati con attenzione, ma a Bruxelles, fa sapere Romano, si sottolinea che la vera partita politica tra governo italiano e esecutivo riguarderà la finanziaria 2017 che deve essere pronta entro il 15 ottobre. Il tema è la flessibilità, quanta flessibilità. Eccolo qui Carlo Di Foggia, secondo il Fatto Quotidiano. Renzi contro Padoan e l'Unione Europea che lo gela, niente sconti. La riunione è iniziata in grande ritardo nella notte, trattativa estenuante, racconta il Fatto. Il Premier chiedeva un deficit al 2,5% per altri 8 miliardi, Bruxelles ha concesso il 2,3%, si parla anche di tensioni con il Ministro del Tesoro Padoan. Non so se queste versioni verranno smentite, però è chiaro che questo è ciò che racconta il Fatto Quotidiano. Riguardo ai conti pubblici, vi segnalo, e riguardo alla situazione economica, oggi due interviste. La prima al presidente di Confindustria, Boccia, Vincenzo Boccia, intervistato a pagina 3 della Stampa da Marco Zatterin. Il titolo, i nuovi incentivi alle imprese, un buon inizio ma non basta. E sulla spesa Draghi ha ragione, dice Boccia, non bastano 13 miliardi di incentivi per le imprese. Ciò non toglie che il piano Industria 4.0 del governo gli piaccia, perché è un primo passo verso un approccio di più ampio respiro per un paese, l'Italia, che ha ancora le patrimoniali sui fattori di produzione come l'IMU sui capannoni e un cuneo fiscale elevatissimo. La situazione economica, dice Boccia, è delicata. È importante essere passati a indici positivi, ma siamo ancora 8 punti di PIL al di sotto rispetto al 2007. E ancora, in 15 anni i tedeschi hanno compiuto un salto di produttività grazie a un'idea diventata politica fiscale. Schröder ha avviato lo scambio lavoro-produttività. E poi, davanti a un taglio della fiscalità sui premi di produzione, noi non potremmo far finta di niente. Verrebbe alimentata una politica della domanda attraverso una politica di offerta, cioè di maggiore competitività. Ma è necessario affrontare le priorità insieme e stilare un elenco di punti anche con i sindacati. Laddove c'è consenso si chiude, sul resto si litiga lealmente. Detto questo, vogliamo arrivare a aprire un confronto macro partendo dalla visione industriale dire cosa vogliamo per l'industria del futuro. Questo Vincenzo Boccia, che poi propone detassare i premi di produzione, aiuta la competitività. Siamo pronti a discutere nuovi modelli di contratto, ma prima chiudiamo sui meccanici. Questa pagina 3 della Stampa riguarda la situazione economica e invece è ben più pessimista. Carlo De Benedetti, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, pagina 17, annuncia: siamo alla vigilia di una nuova grave crisi economica che aggraverà il pericolo della fine delle democrazie come le abbiamo conosciute. Ma ci sono Draghi e la Fed, dice Cazzullo. Le banche centrali, risponde De Benedetti, hanno tentato di cambiare mestiere. Dopo 50 anni in cui il grande nemico era l'inflazione, hanno combattuto la deflazione creando moneta, ma così hanno costruito una trappola. Hanno immesso sul mercato trilioni di dollari, cifra inimmaginabile e incalcolabile. Non ci sono più titoli da comprare. Le conseguenze politiche negli USA, nessuno può escludere una vittoria di Trump. E per il mondo occidentale questo sarebbe, secondo De Benedetti, una tragedia. Il protezionismo americano aggraverebbe la nostra crisi. In Italia, invece, in base ai sondaggi, 5 Stelle oggi potrebbero vincere le elezioni. E con quali conseguenze non ci voglio pensare, risponde De Benedetti. Li ho sentiti in TV da Palermo accusare tutti i giornali di essere contro di loro. Non è così, i giornali criticano i comportamenti. Contro l'Appendino nessuno ha scritto nulla. Se dopo 4 mesi la Raggi non ha ancora fatto la giunta, come si può non criticare? Poi Carlo De Benedetti, tessera numero uno del PD, critica anche... parla anche di Renzi e dice: sul referendum, se vincesse il no, Renzi dovrebbe dimettersi il giorno dopo, anche se non credo che lascerà la politica. Invece Berlusconi aspetta col cappello in mano, comunque finisca il referendum, ci guadagna anche se vince il sì. Renzi avrà bisogno di lui. Così Carlo De Benedetti, che parla di nuova grave crisi economica in arrivo che metterà in pericolo le democrazie. Visto che abbiamo parlato di Berlusconi domani compie 80 anni e si concede in una lunghissima intervista, ma non è proprio un'intervista, è su chi? Silvio Berlusconi, Alfonso Signorini e Mario Brenna raccontano un po' la storia degli 80 anni di Berlusconi con qualche dichiarazione qua e là. Tra le dichiarazioni che sicuramente faranno parlare c'è quella sull'amore: importante nella mia vita, ma confesso, l'amore e l'impegno per il lavoro hanno spesso preso il sopravvento. E poi un Berlusconi che soprattutto dichiara sulla politica: non mi ha mai appassionato, mi ha fatto solo spendere un sacco di tempo e di energie. Se sono sceso in campo è solo per impedire l'ascesa dei comunisti al potere, visto che Tangentopoli aveva praticamente cancellato la storia e i protagonisti di tutti i 5 partiti democratici che ci avevano governato per 50 anni. Non esistevano alternative. So solo che tanto in politica estera quanto in politica interna non ho mai sbagliato un colpo e non sono caduto per colpa mia. Non ho mai sbagliato un colpo, un po' come Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Il Berlusconi di Radio 24 e anche del Sole 24 Ore. Ma mi accontenterei di essere Alessandro Inter per sfidarti al derby, guarda. Va bene. Mi sembrerebbe già sufficiente. No, facciamo naturalmente gli auguri a tutti coloro che hanno compiuto o compiono gli anni. E invece, guarda, vorrei parlarti allora per il contrappasso dei fallimenti. No, nel senso che oggi con il Sole 24 Ore, il focus abituale del mercoledì, dedicato appunto a esecuzioni e fallimenti, esecuzioni fallimentari si intende, eh? E i fallimenti con le novità, è una cosa molto, per me, importante, è diventata anche importante, sì, come capisci, in questi anni di crisi. Ma soprattutto ti voglio parlare dell'APE. Perché tu mi stai trascurando l'APE, invece l'APE oggi potrebbe finalmente assumere la sua forma definitiva con il taglio massimo possibile, che potrebbe fermarsi al 20%, quindi un anticipo che viene in qualche modo pagato da una riduzione del 20% dell'assegno di pensione. Però c'è l'APE social invece per chi è in una condizione di svantaggio come i disoccupati di lungo corso. Ma tutti in particolare sul Sole 24 Ore, dove apprenderai anche, tra l'altro, che c'è un nuovo stop sulla questione dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, ti ricordi la sentenza? Ah, il famoso. Bravo, leggi norme e tributi, caro, ti farà bene, leggi sempre religiosamente. Che il garante della privacy è scocciato con WhatsApp. Sì. Sai che c'è stato questo trasferimento di dati un po' a nostra insaputa, e il garante della privacy non l'ha presa benissimo e ha chiesto spiegazioni. Ne riferiamo appunto nelle pagine di norme e tributi. E poi si preannuncia un taglio di stipendi del 20% per i dipendenti pubblici in Arabia Saudita. Ah, ecco, ma no. con la spada, con la sciabola? O... No, è un taglio vero e proprio. Sai che il petrolio non ha delle quotazioni elevatissime, anche l'economia dell'Arabia Saudita ha i suoi problemi, ne riferiamo. Nelle prime pagine del Sole 24 Ore si immagina un taglio del 20%. 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici hanno tremato per un attimo. In Arabia Saudita No, in Arabia Saudita, non da noi, per carità. Allora, ti segnalo invece una cosa, un articolo da meditazione un po' diverso oggi, che riguarda le società benefit. Vorrei essere serio per 10 secondi, le società benefit sono una novità normativa, riguardano quelle società che pur avendo normalmente un profilo profit, però introducono lo statuto dei fattori di aiuto al territorio, a soggetti svantaggiati e così via. Ti spieghiamo tutto nelle pagine di norme e tributi che tu leggerai, come sempre. Religiosamente. Come sempre. Benissimo. E allora, tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta Alessandro Milan, rido a notizie, sgagno giornali, Puccio Nigoi. Vabbè, allora, cari ascoltatori, siamo qui. Roma ancora, la giunta non si fa, non è completa. Ieri c'è stato l'ennesimo colpo di scena, il magistrato Salvatore Tutino, consigliere della Corte dei Conti, rinuncia, era dato in predicato per essere uno dei nomi al bilancio, la casella più delicata e anche più controversa da assegnare. Roma è ancora caos, salta il nuovo assessore e Grillo impone silenzio stampa, ha detto ai portavoce 5 Stelle, li ringrazio perché non faranno interviste su Roma in questi giorni. Evidentemente gli è sfuggito il vice sindaco di Roma, Frongia, che tra poco vedremo, magari aveva già rilasciato questa intervista alla stampa. Comunque, intanto parla Salvatore Tutino, colui che doveva essere all'assessorato al bilancio, ora si toglie qualche sasso dalle scarpe, intervistato da Mauro Favale su Repubblica. Ho deciso di tirarmi indietro perché ho un ruolo istituzionale, devo difendere l'istituzione da cui provengo. Certo, non sono un ladro, non sono uno della casta. Ma alcuni parlamentari 5 Stelle invece l'hanno proprio definita un esponente della casta. Ho letto le parole di Roberto Fico, risponde Tutino. Non voglio usare per lui l'espressione utilizzata dal governatore della Campania, De Luca. Fico dice che ha un dossier contro di me. Vediamolo, allora. In realtà, poi aggiunge Tutino, mi sembra sotto gli occhi di tutti la lotta tra bande che attraversa il movimento che dovrebbe sostenere questa giunta. Io avevo fatto una scelta, avevo pensato di dare il mio piccolo contributo, una pietruzza per cambiare le cose, ma invece no, ero l'unico candidato. Questo mi ha fatto capire la Raggi. Non è la stessa cosa che dice il vice sindaco di Roma, intervistato dalla Stampa, pagina 7. Si tratta dell'intervista di Ilario Lombardo a Daniele Frongia. Vice sindaco, anche Tutino è perso. Come ha detto la sindaca, era solo un'ipotesi, tra l'altro costruita sui giornali che fanno e disfano come vogliono. Ci sono altri nomi, vedo però che Tutino continua a fare interviste. Ha detto di essere il capro espiatorio, lo dice lui. Ma un assessore servirà, quando pensate di nominarlo? A breve, risponde Frongia. Ma avete detto a breve due volte in questo mese? Quanto breve? Non fissiamo una scadenza. Comunque, nomi ci sono. Ma quanti? Provi a dire un numero, chiede Frongia all'intervistatore. 3? Ma siamo lì. Non sono comunque molti. E al che l'ultima domanda è: ma non è possibile un ritorno di Marcello Minenna? E perché non far tornare come sindaco Ignazio Marino? Allora risponde con una neanche tanto celata ironia il vice sindaco di Roma. Comunque la situazione è ancora complicata. Intanto Renzi venerdì da Enrico Mentana si confronterà in TV con Gustavo Zagrebelsky per il sì Renzi, per il no Zagrebelsky al referendum. Questo a dire che Renzi è pronto a questa campagna anche frontale, dopo aver fronteggiato anche Marco Travaglio. Ieri si raccontava di questa campagna in cui si vuole spendere in prima persona. Le polemiche però sui giornali, oggi sempre sul Fatto Quotidiano e sul Giornale, sono per il viaggio di Maria Elena Boschi, il ministro, 5 giorni in Argentina. Il Giornale fa anche i conti: spende 300.000 euro per il sì in Sud America. Gian Maria De Francesco a pagina 3. Il Fatto Quotidiano con Stefano Feltri e Carlo Tecce racconta di una missione farlocca. 5 giorni, sono stati firmati 2 protocolli, insomma niente di così istituzionale. In realtà sono tutta una serie di incontri per promuovere la riforma. Abbiamo detto ieri che raccontava La Stampa, una delle carte che vorrà giocare Renzi è quella del voto degli italiani all'estero. Sono circa 4 milioni che voteranno e si vuole ovviamente portarli verso il sì da parte del governo. Alcune storie di cronaca per concludere. Intanto questa storia che c'è sulla Stampa, prendetela come volete, è una storia d'amore comunque, che verrà coronata domani. Le spose sono 2 donne e sono 2 ex suore. 2 ex suore che si sono conosciute in missione, si sposeranno domani a Pinerolo e si sposeranno davanti al sindaco 5 Stelle, Luca Salvai, Isabel e Federica. Eccola qua, la storia di Isabel e Federica, ex suore, domani spose. Pagina prima e poi continua pagina 17 della Stampa. E poi questa storia che c'è su tutti i giornali del mondo, credo, non solo in Italia, la storia di Abrahim, primo bambino nato con il DNA di 3 genitori. È successo così, come racconta Margherita De Bach sul Corriere. I medici del team coordinato dall'americano John Zhang hanno preso l'ovocita di una donatrice, lo hanno svuotato del nucleo lasciandogli il mitocondrio, organello necessario alla cellula per avere energia. All'interno hanno quindi inserito il nucleo della mamma di Abrahim, che è stata poi fertilizzata in provetta dallo spermatozoo del padre. Si è sviluppato un embrione sano e di fatto, con tutto il dibattito sulla genetica, sui limiti, su dove si può arrivare, su dove ci si deve fermare, è il primo bambino nato con il DNA di 3 genitori. Ne parla il Corriere, ne parla Repubblica, lo faccio vedere in diretta sul mio profilo Facebook pubblico, eccolo qua. Siamo in diretta con Lorenzo Nespoli che mi riprende come sempre a finale di rassegna stampa e va bene. Il miracolo di San Gennaro ha rubato le offerte dei fedeli. State attenti che il sindaco di Napoli De Magistris ha detto: restituite tutto, che porta male, porta iella rubare le offerte di San Gennaro. Va bene, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina di Alessio Ribaudo sul Corriere della Sera per raccontare la vera ossessione italiana. E qual è l'ossessione degli italiani? Qual è? La bilancia. La bilancia. La bilancia. Ma chi se ne frega?